Noi manifestiamo per qualcosa, che poi quel qualcosa effettivamente si ritrovi in contrapposizione con i valori invece di Salvini e quindi della Lega, quello è un dato di fatto, ma è diciamo, un fattore che arriva dopo, che è È una consecutivo, conseguenza. esatto, Ma siete di implicito. centrosinistra, se si può dire, non mi dica che non siete né di destra né di sinistra. Purtroppo il movimento nasce proprio con questa natura qui, con una natura apartitica. Rassegna eventi. La paura viene dal mare. Ah no, stiamo scherzando, siete pronti per la Pesciolino Dance? E dai, Buonasera a tutti e tutte, questa è la trapunta. Vi lascio un po' sentire questa canzone, è un po' a tema della settimana. Due secondi imparerai, ci vorrà un po' di fantasia, e presto come per magia, ti basta un tuffo e già sarai di fondo al mare, allora dai, saluta i polipi, le ostriche Eh sì, solo Bricobaldo quest'oggi qui nella regia, nella grande tana del Wombat, perché il buon Mario sta per arrivare un po' in ritardo. Io intanto ho iniziato, ho pensato di sollazzare un po' con il tema della settimana, visto che le sardine sono state tra noi in Piazza della Repubblica. Avremo ospiti, uno è già qui accanto a me, attualmente. Lo sentiremo in seguito, si parla di teatro, in particolare del Teatro della Polveriera. La Trapunta, la rassegna eventi settimanale, va in onda su Radio Wombat. Si ispira, diciamo, trae, prende gli eventi dalla piattaforma www.lapunta.org, tutti gli eventi negli spazi autogestiti dei collettivi fiorentini, ma anche non solo. Qualche contatto di Radio Wombat, ci potete ascoltare sulle frequenze 1359 AM o soprattutto nell'area fiorentina di Firenze Nord in particolare. Oppure potete ascoltarci su wombat.noblogs.org, potete anche scriverci sulla casella mail posta wombat@insiberia.net, ci potete segnalare eventi o suggerimenti in generale per migliorare il tutto. Tema della giornata, tema della settimana è un po' quello delle sardine, le abbiamo viste numerosissime in Piazza della Repubblica e una cosa veramente notevole. Abbiamo fatto qualche intervista, noi c'eravamo, abbiamo fatto qualche intervista, raccolto qualche contributo dalla persone che erano in piazza, persone qualsiasi. Abbiamo anche un contributo invece da un gruppo organizzato, dagli studenti di sinistra, e infine un piccolo pensiero del Wombat. Sono le 18, anzi sono le 19, siamo in Piazza della Dai. Repubblica, il ritrovo delle sardine, abbiamo qua una partecipante, anzi due, anzi forse tre, anzi diverse migliaia, un po' un pensiero su questa giornata. È una giornata bellissima perché noi siamo stufi di questo populismo, cioè i politici che sono al governo, diciamo, e sono al governo non ci rappresentano perché fanno solo propaganda elettorale e noi questo non lo vogliamo, noi vogliamo che facciano le cose serie, dei programmi seri che ci facciano capire e che non li votiamo in base a programmi. Di quali politici parliamo? Più che altro i sovranisti, I socialisti? i Ah, i sovranisti, no? sovranisti, ok, i sovranisti, va In bene. particolare. Va bene, in particolare uno, In immagino. particolare, il pericolo è che gli altri poi lo seguono, perché gli sennò altri, perdono però, voti. quali altri? Gli Tutti. altri. Okay, Tutti noi. Parla te, Ma no? no. Prego, prego, è qui, scopriamo. Noi è una vita si vota PD, quindi noi vogliamo il PD, perché ci sembra il partito più ragionevole, quello ha sempre pensato di più, diciamo, ai bisognosi. Ma una domanda difficile, ma ad esempio il decreto sicurezza che origina, trova le sue fondamenta nel decreto Minniti, come lo spieghiamo? Perché in fondo è diverso. No, È diverso. Poi. Il problema è che Minniti aveva paura per la tenuta democratica del paese, capito? Perché c'è la gente che è impaurita dai migranti a causa di questa propaganda. E per questo Minniti l'ha fatto, pur essendo una persona secondo me intelligente. Però sbagliato, perché noi bisogna accogliere le persone. Quindi non c'è una grande differenza tra l'uno e l'altro su questo argomento. A fini pratici ha fatto tutto Minniti, perché Salvini ha fatto solo la propaganda, ma tutto ha fatto Minniti. Ok, bene, grazie. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Telefono con Paolo degli studenti di sinistra, era presente insieme ad altri compagni e compagne in piazza sabato durante il presidio delle sardine. Ciao, intanto, buongiorno. Sì, ciao a tutti e a tutte. E se ci puoi raccontare com'è andato, visto che avete avuto dei problemi anche riguardo a un intervento che dovevate fare, giusto? Sì, ma molto semplicemente noi avevamo preparato un intervento da leggere in piazza sabato, sapendo che c'era appunto il microfono aperto, comunque era una piazza libera, aperta a tutti, quindi pensavamo di poter fare tranquillamente un intervento a nome di studenti di sinistra, diciamo per dare una voce anche universitaria a questa protesta. Di fatto poi, quando ci siamo presentati per poter fare questo intervento, la possibilità a noi come a tante altre compagne e compagni è stata negata, con varie motivazioni, insomma più o meno veritiere, ecco, mettiamola così. Ecco, chi è intanto che decideva chi poteva salire, chi poteva intervenire e chi no? Ma allora, per come è stata giustificata a noi mentre eravamo lì, erano gli organizzatori della manifestazione di sabato, i quali all'inizio ci hanno detto che appunto potevano prendere parola soltanto loro, poi in un secondo momento i microfoni non erano più a disposizione, però ecco, era tutto concentrato lì in chi aveva organizzato la manifestazione e gestiva da solo il palco. Ok, quindi lo spontaneismo non era proprio una cosa presente, no? È uno dei cardini della giornata. E che giustificazione hanno dato? Perché non vi hanno fatto parlare? Allora, ti ho detto, all'inizio è stato detto che non potevano far parlare chiunque, che appunto c'era questa sedicente scaletta alla quale non ci si poteva segnare più ormai, nonostante fosse iniziata a 20 minuti la manifestazione, che avrebbero parlato soltanto gli organizzatori. So che c'è stata una compagna che è riuscita a prendere la parola, me ne compiaccio veramente molto, però ecco, è stato un caso unico. Dopodiché, insomma, alle nostre richieste di poter parlare c'è sempre stato risposto che all'inizio che i microfoni non funzionavano, avevano problemi con l'apparecchiatura audio, salvo poi dopo 10 minuti di musica ritornare lì con i microfoni a parlare loro. E poi insomma altre scuse abbastanza utili, ecco. Voi avevate preparato un intervento, quindi su Radio Wombat lo spazio c'è, se ce lo vuoi leggere, così anche se non in piazza. Vi ringraziamo tantissimo per questo spazio. Dunque, l'intervento: anche noi come studenti e studentesse siamo presenti oggi per dire no alle politiche securitarie, xenofobe e sessiste della Lega e di Salvini. Siamo qui per esprimere il nostro dissenso e la nostra rabbia verso chi in questi mesi di perenne campagna elettorale ha sparso odio e razzismo nella nostra città. Se oggi ci troviamo a vivere in un paese dove la memoria della Shoah e della lotta partigiana sono divisive, dove l'immigrato è un pericoloso nemico o una risorsa da sfruttare a seconda dei casi, lo dobbiamo allo zelo dell'ex ministro dell'interno e dei suoi accoliti, ma questo solo in parte. Il nostro paese non ha mai fatto davvero i conti con il suo passato coloniale e totalitario, cosa che ha permesso a forze politiche apparentemente antagoniste di portare avanti questa aberrante opera di revisionismo alla quale stiamo assistendo. La narrazione di Salvini è soltanto la versione più becera e populista di questo tentativo. Allo stesso modo non possiamo dimenticare che i decreti di sicurezza dei quali pretendiamo la totale abrogazione non sono altro che la prosecuzione delle politiche repressive del fenomeno migratorio inaugurate dalla legge Bossi-Fini e intensificate con i decreti Minniti e gli accordi con la Libia. Non basta puntare il dito contro Salvini. La responsabilità della miseria umana della nostra società e anche di tutti coloro che in questi anni hanno fomentato la guerra tra poveri, con le crociate contro il degrado, con lo smantellamento progressivo dello Stato sociale, con le politiche di flessibilità e sicurezza. Salvini è un fantoccio, uno strumento reazionario, foraggiato dai capitali nostrani e non solo. I casi Benetton e Savoini ne sono una prova. È la caricatura dell'uomo forte, virile e naturalmente ignorante, che narra di essere l'ennesimo dono della provvidenza, salvo poi rifugiarsi dietro l'immunità per sottrarsi alle indagini della magistratura e fuggire davanti alle piazze piene che lo contestano. Ed è quello che farai anche stasera, capitano, te lo assicuriamo. Firenze è una città solidale, libera e a volte pure ribelle. Questa è una città che si è liberata da sola dalla dittatura e alla lotta partigiana ha dato i suoi migliori figli. Questa è una città antifascista e noi lo sappiamo bene. Perciò vattene, Matteo, che a Firenze i fascisti non ci piacciono. Se in una piazza di sardine ti senti un pesce fuor d'acqua. Sarde e acciughe vengono anche chiamate dalle nostre parti il pan del mare per la loro abbondanza, il basso costo, le proprietà nutritive e la possibilità di conservarle a lungo. Tutto ciò ne ha fatto un alimento popolare di grande diffusione e di importanza vitale per grosse fette della popolazione affacciata sul Mediterraneo nei secoli passati. Proviamo a trovare delle similitudini con le sardine scese in piazza ieri a Firenze. In quanto ad abbondanza, non si può che rimanere stupiti dall'enorme banco di persone che gremiva Piazza della Repubblica. Non ti potevi muovere se non quando investito dal flusso creato da gente che affluiva e defluiva. Una cosa mai vista a Firenze, una massa entusiasta e festante in un'atmosfera a metà tra un corteo e un sabato di shopping prenatalizio. Il basso costo delle sarde ha fatto sì che intere famiglie potessero mettere in bocca cibo nutriente almeno un giorno a settimana e ha fornito energia per il lavoro e per la vita delle classi popolari. Bello, eh? Ma ieri, di classe popolare, ce n'era ben poca in piazza, anche se il prezzo era veramente basso. A molti è bastato un like, un parteciperò per sentirsi parte di un banco e tanti si sono sforzati di più scendendo in strada. Guardandoti intorno, trovavi una piazza nuova, fatta di persone che manifestano con parsimonia, che fanno delle mobilitazioni una questione di tendenza, di moda, con il rischio che poi, una volta tornate sul divano, si scordino tutto perché hanno cambiato canale o gruppo Facebook. Il costo delle sardine della Repubblica è basso perché non viene richiesto niente di impegnativo, neanche le proposte sono dure da assimilare, visto che fondamentalmente non ci sono. L'importante è il risalto mediatico, e intanto gli squali si aggiravano per la città. Uno bello grosso è stato avvistato a Firenze Sud, ma ce ne sono stati altri, piccoli squaletti, che sono passati dalla piazza. Facciamoli crescere in pace, che in futuro ne vedremo delle belle. Le proprietà nutritive delle sarde sono note a tutti. Pesce azzurro, ricco di omega 3, di vitamina B e D, di iodio e calcio, che ne fanno un alimento importante per una dieta sana. Possiamo trovare delle similitudini con il banco di ieri? Cerchiamo di scovare alcuni, o almeno qualche, elemento nutriente, forse la tanto millantata assenza di odio, oppure il fatto di essere in tanti, o magari quello di non avere bandiere. Come è stato detto in un intervento, i contenuti siamo noi, ma ricordiamoci che le sardine, se non sono abbastanza fortunate da sfuggire alle reti dei pescatori, finiscono sotto sale, chiusi dentro botti, o latte. Dove stanno i contenuti e i temi sociali da affrontare con urgenza? Non è stata spesa una sola parola su ciò che realmente necessita una comunità, ma solo frasi generiche, gridate a gran voce, senza che esse poggiassero su solide basi di pensiero e coscienza. Cos'è questo se non un populismo con le maniere gentili? E vogliamo parlare di quel bella ciao intonato a gran voce? Parliamone! Visto che tale canzone sta avendo una seconda vita da quando è stata inserita in una popolarissima serie TV di Netflix e ti capita di sentirla nelle occasioni più svariate, dalle manifestazioni sportive internazionali alle piazze che di partigiano hanno ben poco. Se diamo per assodato che si tratti di una canzone partigiana, consideriamo che chi ha fatto la resistenza non era immune a sentimenti di odio nei confronti dell'intolleranza fascista, bensì credeva che non si potesse minimamente tollerare tale comportamento. Per questo le soluzioni erano i fucili e le forche. L'antifascismo democratico è una nuvola di fumo che porta a situazioni come quelle di oggi, dove esponenti neofascisti partecipano a talk show e a volte siedono addirittura sulle poltrone del potere. Però, se poi intendiamo Bella Ciao come una canzone di tendenza, allora ci posso stare. Suggerisco, però, di ponzarla un pochino. Che so, luci stroboscopiche, qualche macchina del fumo. La butto lì, magari alla prossima occasione. L'ultimo punto è la conservazione delle sardine, perché la lunga conservazione dipende dal fatto che vengono messe sotto sale, il che rende possibile la commercializzazione anche in luoghi non prossimi al mare, ora e in passato. Però, per fare questo, naturalmente, è necessario un processo di trasformazione, che dura diverso tempo e che va svolto con cura e pazienza. Ecco, io capisco che la memoria e l'attenzione ai tempi dei social possono essere fallaci, ma non credevo fino a questo punto. Veramente non ricordiamo come è nato il Movimento 5 Stelle? Quelli che ora governano e che hanno sempre sbandierato un apartitismo con conseguenti continue sbandate nell'orientamento politico di qua, di là, persi nel qualunquismo, schiavi del consenso mediatico al punto di favorire in modo inconsapevole il più pericoloso degli avversari. Veramente vogliamo fare lo stesso errore? Non puoi sfuggire alla natura di un movimento nato e cresciuto sui social, che usa il linguaggio tipico delle piattaforme, capace, per limiti intrinseci, di coinvolgere esclusivamente da un punto di vista emotivo, senza stimolare il pensiero critico e razionale, e che, come tutti i movimenti social, è destinato a durare il tempo di un like se non cambia rapidamente forma e non si dota di contenuti. Due parole, infine, dobbiamo spenderle anche sulla rivendicazione di spontaneità di un movimento che millanta apertura e partecipazione nel basso, ma che impedisce a determinati soggetti di intervenire al microfono con la scusa che il tempo è scaduto, dobbiamo sparare la musica a palla e far ballare tutto. Dunque, qualcuno queste cose le ha decise, quindi qualcuno che decide c'è. Chi è che decide? Come vengono decise? Ma soprattutto, chi fa le playlist? Beh, tutto questo ha provocato sentimenti contrastanti che la mia mente ha solo parzialmente elaborato. Bello il fatto che molte persone si trovino in piazza per un motivo comune, ma è da brividi, vedere che nessuno si renda conto di quanto sia pericoloso questo giochetto di demonizzazione di una fazione politica che usa toni duri, senza considerare le altre fazioni politiche che solo con toni più gentili apportano le stesse riforme razziste, securitarie e classiste. Un grande disagio mi ha spinto via da quel clima di festa con migliaia di sardine che ballano nella rete del pescatore, e la domanda che mi risuona in testa da ieri è: ma com'è possibile sentirsi un pesce fuor d'acqua in un mare di sardine? Non guardarmi più e non toccare mentre parli o t'ammazzo. No, non mi sembra che ti stia dando del tu. Se mi riabbracci un'altra volta esco pazzo, vorrei scendessi da quel pulpito con fiori, citazioni e verbi che non sai. Ogni parola mi perfora lo stomaco dall'imbarazzo conto terzi che mi dai. Qui c'è soltanto disagio, mi crei soltanto disagio. La vita è solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio. Oh, solo disagio. Oh, ansia e disagio. Oh, solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio. Adesso zitto, non parlare più. Ho una paura rara del tuo contagio, delle battute che fai ridi solo tu, con quel sorriso falso, amaro e malvagio. Ma c'è qualcosa emozionante nelle mani giunte a donne semimorte, vuoto di dette frasi filosofiche per funzionali analfabeti come te. Qui c'è soltanto disagio, mi crei soltanto disagio. La vita è solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio. Ma adesso puoi andare via, che il posto lo sai qual è. La tua voglia di droga, le volte, quell'ansia e disagio la notte. Quello che mi regali è ansia e disagio. disagio, qui c'è soltanto disagio, mi crei soltanto disagio, la vita è solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio, qui c'è soltanto disagio, mi crei soltanto disagio, la vita è solo disagio, quello che mi regali è ansia e disagio, qui c'è soltanto disagio. Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro? Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina? Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo? Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose. Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie. E dai, Vendiamo il benvenuto subito a Mario. Ciao Riccobaldo, ciao a tutti. È arrivato, finalmente. Abbiamo finito con i pipponi. Abbiamo anche lo zio, abbiamo un... Ciao zio, abbiamo un ospite che fra un po' sentiremo. Dunque, Mario, tutto bene? Tutto bene, tutto molto bene, a parte l'acqua che mi ha inondato, ma mi sono appena cambiato con i miei nuovi calzini. Si è preso un'acquata dura. Sì, effettivamente. Allora, siamo pronti? Si fa una rassegna? Sì, vi vogliamo raccontare che cosa succede anche oggi nei nostri spazi fiorentini, nelle piazze e nelle aule dell'università, come sempre qui sulla Trapunta, a partire dal sito lapunta.org. Dai, lapunta.org, guardatela, nel frattempo noi ve la raccontiamo. Inizia il buon Mario. Inizio io volentieri con lunedì, questo lunedì 2 dicembre, adesso, attualmente in corso all'Università di Novoli, la presentazione del libro Etnoregionalismi con l'autore Adriano Cirulli e Raffaella Fittipaldi, che è dottore di ricerca all'Unifi. Si parla dell'autodeterminazione catalana e delle varie lotte in giro per l'Europa che rivendicano l'indipendenza dallo Stato, in particolare da quello spagnolo, oggi all'Università di Novoli, organizzata dal Polpol. Sempre oggi invece un'assemblea cittadina in Viale Corsica, all'occupazione Corsica 81, in seguito alle ore 19, in seguito alle diverse aggressioni, si parla di 3 aggressioni negli ultimi pochi giorni, soprattutto nel quartiere di San Jacopino, quindi per organizzare mobilitazioni. Dai, stasera in Viale Corsica 81 alle 19.30. Succede sempre stasera allo studentato autogestito PDM in via del Ponte di Mezzo a Firenze, dalle 21 la proiezione del film Joker, ingresso ovviamente libero e ad accompagnare birrette fresche e qualche cosa da sgranocchiare. Tutti come sempre benvenuti. Martedì 3 dicembre alle ore 17 in Brunelleschi all'Università, a cura del CUA, uno sguardo sulla piazza cilena che va da via Pinera. Noi rimaniamo. Succede mercoledì sera, ma la passiamo velocemente perché poi ci torneremo dopo questa cosa, la presentazione del corso del laboratorio teatrale in polveriera. Ma passiamo subito oltre perché su questo avremo un approfondimento. Andiamo invece a giovedì, il giorno dopo, il 5 dicembre, quando dalle 17.30 in Via del Leone, un'assemblea all'occupazione di Via del Leone, un'assemblea pubblica. Cremona 2015 non è finita, libertà per gli antifascisti. Parliamo di quando nel gennaio del 2015 una squadraccia di Casa Pound attaccò il centro sociale Dordoni di Cremona. A seguito di quello ci furono conflitti e soprattutto tanti compagni vennero perseguitati. Ne parleremo appunto questo giovedì con i compagni antifascisti leccesi e con l'associazione Bianca Guidetti Serra, dalle 17.30 al primo piano dell'occupazione di Via del Leone. Seguono cibo, birrette, vin brûlé, tutto benefit per le spese legali dei compagni inguaiati. Sempre giovedì 5 dicembre, assemblea pubblica antifascista. Sono i primi di dicembre, ci avviciniamo a due anniversari piuttosto importanti. Uno è la strage di Piazza Fontana, l'altro è la strage di Piazza Dalmazia. La ricordiamo, era il 13 dicembre del 2011. Quindi l'appuntamento è al Circolo Alci il Progresso in via Vittorio Emanuele 136 alle ore 21, ripeto, giovedì 5 dicembre. Venerdì 6 alle 17 alla Biblioteca di Lettere in Piazza Brunelleschi all'Università, storia e interpretazione di Piazza Fontana 50 anni dopo. Un'iniziativa e un dibattito organizzato dal collettivo di Lettere. Interverranno alcuni attivisti di Noi Restiamo e anche Vincenzo Mordini e Stefano Fusi dell'Archivio Storico 68. Questo venerdì alle 17 all'Università di Lettere. Andiamo a venerdì 6 dicembre presso lo spazio New Roots, che non è propriamente a Firenze bensì a Roma, ma è comunque sulla punta fiorentina. Vi è la presentazione dell'agenda Scarceranda. E Scarceranda, lo sappiamo, è un'agenda promossa e fatta e promossa da Radio Onda Rossa. È una agenda pensata per chi sta in carcere. Sempre venerdì 6 dicembre dalle 18 al Cinema Odeon, assemblea pubblica, lancio della campagna Stop Pesticidi. Costruiamo insieme il cammino verso l'agroecologia nel nostro territorio. Dalle 18 alle 20.30, dunque, questo percorso, eccolo, nasce dall'iniziativa del Nodo Fiorentino di Genuino Clandestino, assieme al Comitato di Mondeggi Bene Comune Fattoria Senza Padroni, al coinvolgimento delle studentesse e degli studenti di Fridays for Future Firenze, oltre ai comitati di lotta territoriale, presidio No Ince e No Aeroporto. Stop Pesticidi, costruiamo insieme il cammino verso l'agroecologia del nostro territorio. Siamo sempre a venerdì 6 dicembre, questo appuntamento è alle ore 20 presso la polveriera Spazio Comune in via di Senta Reparata e abbiamo ROM, Rifugio Orchestra Musicale, una grande orchestra suonerà per noi fino a chiusura 23.30. Tutto si è bloccato, ma ricordo bene che venerdì 22 dicembre, questo venerdì, aiutami, alle ore 22, se non sbaglio, al Camilo Cienfuegos. È proprio così, sì. Dammi una mano, vecchio mio. Tra pochi giorni è Natale, vi è uno spettacolo teatrale. Alle ore 22, presso il punto cantiere sociale, Camilo Cienfuegos a Campi Bisenzio. Invece, andando a sabato, abbiamo un evento promosso dall'Ateneo Libertario. No, scusa, mi sbaglio, dall'archivio storico del 68 in via Giampaolo Orsini 44, dalle ore 15 parliamo della strage di Piazza Fontana, della quale appunto ricade l'anniversario. E concludiamo questa rassegna settimanale con la Roda di dicembre, l'appuntamento per chi ci ascolta ormai classico mensile di capoeira in polveriera. Dalla mattina alle 11 alla sera alle 19 ci si allena in compagnia, si balla e si lotta. A seguire cibo, birrette, vin brûlé e cose buone. Tutta la domenica dalle 11 in polveriera, Roda di dicembre. Bene, la rassegna è finita, io direi di mandare un pezzo, Avanti. Che ne dici? Dimmi se ti ricorda qualcosa. Vediamo. Mi ricorda la mia nonna per adesso. Ora sento un sentore di miele. Attenzione, attenzione. Per te, per me, per te. picture this. I'm a bag of dicks. Put me to your lips. I am sick. I will punch a baby bear in his shit. Give me lip. I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick. I am crack. Little wench, I'm a mentionably fresh, I'm a mensch. Get correct, I will walk into a court while they wreck, screaming, yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Baldo di nuovo qui, come promesso. Pronto pronto, un approfondimento su quella, su quello che è uno degli eventi che vedremo questa settimana in uno dei nostri spazi sociali. In particolare questo mercoledì 4 dicembre inizia alle 19 per il terzo anno il laboratorio teatrale in Polveriera. Quest'anno si intitola Il Corpo Parlante. La presentazione e il primo incontro di questo laboratorio è, ripeto, questo mercoledì dalle 19. Un laboratorio a cura di Underwear Theater, lo ricordiamo, libero e gratuito, ma per dirci tutto e per dirci meglio abbiamo qui ospite regista e attore Filippo Frittelli. Ciao Filippo, benvenuto. Ciao, ciao, buonasera. Filippo di Underwear Theater e che per il terzo anno è qui con noi in Polveriera a organizzare un laboratorio teatrale in uno spazio sociale, un laboratorio libero, inclusivo. Raccontaci che cos'è questa esperienza. Sì, bene, intanto voglio dire che veramente sto provando tanta invidia a essere qui con voi in questo piccolo tempo, perché veramente gli speaker parlano velocissimo e benissimo, è una prova dura per un attore confrontarsi ed è anche bello vedervi dal vivo. Sì, siamo al terzo anno, è veramente una bella cosa, è un laboratorio che è partito un po' in sordina, con l'idea di un tentativo e che poi nel tempo si è allargato, si è consolidato e ha visto le presenze diventare sempre più numerose. Laboratorio appunto che si sviluppa lungo un semestre, quindi un laboratorio anche impegnativo, lungo, che verrà effettuato una volta alla settimana, in questo caso il mercoledì. Diciamo, Tu, sì. No, dicevo, tu non sei appunto nuovo a questo. So che, perché ho avuto il piacere anche di vederli, che già negli scorsi anni questi laboratori hanno portato a degli esiti anche pubblici, degli spettacoli che nei nostri spazi abbiamo visto in più di un'occasione. E anche quest'anno una volontà, quello di far culminare un laboratorio in una rappresentazione o in più rappresentazioni. Sì, diciamo che il concetto di laboratorio è, lo dà la stessa parola, è qualcosa di, in definizione, di in costruzione, che magari ha un punto interrogativo come viaggio finale. Devo dire che nei due anni l'esito positivo è stato proprio dalla formazione di gruppi molto compatti, molto brillanti, che hanno sperimentato le loro capacità teatrali in maniera positiva e determinata, tale da poter creare uno spettacolo, perché non è detto che un gruppo poi riesca, non è, diciamo, il laboratorio non nasce con l'idea di fare lo spettacolo, almeno nelle mie intenzioni, diciamo. Poi il laboratorio in polveriera, uno spazio sociale, uno spazio autogestito, dedito a una cultura libera, apartitica, politica, è, diciamo, veramente un connubio felice, perché il teatro, diciamo, parlando di sociale, è già un'attività sociale, è l'arte, quella che definisce Pirandello, che è nata perfetta per definizione, cioè degli uomini che si raccontano o raccontano ad altri uomini, e questi uomini spettatori si definiscono e si conoscono attraverso il racconto di altri. Non c'è bisogno di niente, è già un'arte perfetta, libera. E qui in polveriera, in quello che definisco un caos bellissimo ma organizzato, libero da infioccamenti di sale, palestri o teatri imparruccati, c'è la possibilità di toccare qualcosa che è veramente più ancestrale, che va verso gli archetipi del teatro, ed è forse addirittura, io ci metto poco mano, ma va diretta da sé verso le radici del teatro. A me fa molto piacere che tu dica tutto questo, perché è la percezione che, assistendo agli esiti dei tuoi laboratori e dei tuoi spettacoli, ho percepito anche io. E vorrei aggiungere che da 3 anni io vedo un crescente fermento attorno a quest'arte, attorno al teatro, negli spazi sociali, nei collettivi, ma in generale direi in città. Però non mi sembra che sia sempre stato scontato ciò che racconti, cioè questa ricerca di una originalità, autenticità dell'arte teatrale, di quel rapporto immediato. Lo vedo, o meglio, l'ho visto molto spesso mediato da quelli che sono dei luoghi di rappresentazione, il denaro, certi meccanismi da cui faticosamente o no forse ci si prova a togliere, collaboratori appunto come questi. Ma vedendo anche quelli che sono tanti esiti in questi anni tuoi, ma anche di altre compagnie, attori e registi, che a Firenze mi sembra stiano crescendo. Ricordo infatti che l'anno scorso sei stato fra gli organizzatori di una 2 giorni di un festival di teatro che, a seguito di 3 anni di attività, ha trovato spazio di nuovo in polveriera. Ti volevo chiedere sia quanto è stato e quanto è difficile fare questo, cioè un teatro libero e non condizionato da logiche di profitto o d'altro, e allo stesso tempo in generale che cosa vuol dire fare teatro sociale, un teatro dove non ci si aspetta magari di trovarlo, dove non si è educati precisamente al teatro. Quali le difficoltà, i pregi di questo? Sì, non è effettivamente scontato per niente quello che stiamo dicendo. Anzi, negli ultimi anni abbiamo visto forse un'omologazione anche delle arti. Il teatro si sta, probabilmente grazie anche alla crisi finanziaria che ha attraversato l'Italia, si sta risvegliando come un'arte di poter in qualche maniera esprimersi in maniera diversa, perché lo consente per definizione. Probabilmente oggi tanti giovani che vedo qui, che frequentano laboratori, sentono il bisogno, per un disagio, come diceva la canzone prima che abbiamo ascoltato, costante, che sta sempre più rappresentandosi, dal fatto di voler scappare da quei fenomeni o le calecche che ci imbrigliano dei social, del virtuale, dalla mattina alla sera. Il teatro si va verso il corpo, infatti il corpo parlante è un qualcosa che ci rimette comunque in contatto con la parte fisica e più in qualche maniera radicale di noi. Il discorso del gratuito, del sociale, è veramente un fatto di impegno. È un impegno assoluto, come voi che siete comunque, fate parte del collettivo della Polveriera, in maniera importante, uguale è un laboratorio di teatro gratuito, perché io non chiedo niente, nel senso non ci sono iscrizioni, chi vuole venire può venire quando vuole, si può unire in qualunque momento dell'anno, però quello che chiedo è l'impegno, cioè è il fatto proprio che sia gratuito e libero ti dà a te innanzitutto la possibilità, se non hai economicamente, di poter frequentare un corso di teatro, e però deve esserci da parte tua, proprio perché non c'hai la costrizione di aver pagato un corso o di aver in qualche maniera adempiuto a degli obblighi, il fatto che tu lo devi volere di venire a farlo e ad imparare. E cioè, è forse una cosa che non abbiamo detto, ma che mi pare di capire dalle tue parole, che è aperto anche a chi non mastica teatro, giusto? Sì, è di fatto un livello unico dove ci sono persone che hanno iniziato 3 anni fa ormai e credo che stiano, che torneranno, sì, anche quest'anno, con cui magari abbiamo iniziato anche uno sviluppo diciamo di rappresentazioni anche più professionali, se possiamo usare questa parola. È comunque un corso di teatro che apre, ci sono dei ragazzi che vedo che girano in altre compagnie, chi si sta specializzando nella tecnica audio e video, perché comunque il corso può dare là anche una professionalità, è assolutamente, è un corso, diciamo, di teatro con tutti i crismi, fra virgolette, me li voglio dare per, sì, la tanta esperienza di teatro che ho ormai, purtroppo, con i miei 46 anni. E ne hai ben d'onde. Ma io, infatti, di ragioni, voglio dire, e io ti volevo domandare quali sono, se ci vuoi fare un piccolo spaccato, degli ultimi spettacoli che hai messo in scena nei vari spazi fiorentini. Di quali argomenti sono stati quelli ultimi? Sì, allora, partendo proprio dalle rappresentazioni che poi sono nate qui in Polveriera, è stato uno dei più importanti, è stato quello del laboratorio l'anno scorso, l'Antigone, che poi è uscito fuori anche col gruppo di attori dalla Polveriera, e l'anno seguente, che c'è stato veramente tantissime persone che sono qui venute a vederle, l'Edipo Re. Con gli spettacoli in Polveriera ho toccato spesso i temi classici, diciamo la narrazione antica, perché dà modo anche di portare fuori in maniera più evidente certe tematiche in chi sta iniziando un percorso di teatro. Diciamo, non è difficile chiamarlo un teatro politico, perché comunque per me il teatro è comunque politico, sì, nel senso lo è a prescindere. Questi temi, nel momento in cui tu vai a rappresentare un Antigone che lotta contro le leggi sbagliate del padre, o un Edipo Re che lotta contro il destino, già l'impegno è immediato, evidente, non c'è bisogno di... Senza contare, se posso permettermi, che si connota in modo politico anche il modo stesso in cui questo corso e questi spettacoli vengono proposti, cioè appunto gratuitamente in uno spazio sociale, senza restrizioni e pubblicamente. È così, Marco, il teatro è un abbraccio in sé, cioè nel senso proprio unisce le persone, ed è veramente, per la mia esperienza, che non è tantissima negli altri campi d'arte, però effettivamente, non essendoci nessun bisogno di strumentazione, perché siamo noi con i nostri corpi parlanti, e il teatro consente di traversare, traguardare le età, le razze, le religioni, le lingue, tutto, e l'istruzione, e ci mette automaticamente la prima lezione e mette tutti sullo stesso piano. E ricordo anche di averti visto fare spettacoli dei più vari argomenti, da occasioni in cui qualche evento era organizzato su tema veneziano, hai messo in scena Goldoni, ricordo di aver visto Nietzsche, Unfinished Nietzsche, messo in scena qua, così come a San Lorenzo, all'interno di passeggiate per la riappropriazione degli spazi pubblici, un teatro che dagli spazi esce fuori per proporsi alla gente all'interno di un atto di riappropriazione dei luoghi pubblici e di un'arte appunto pubblica. Tutto questo è anche il laboratorio che inizierà questo mercoledì, giusto? Esattamente, esattamente. E allora noi vi rinvitiamo tutti quanti, questo mercoledì in Polveriera inizia il laboratorio di teatro Il Corpo Parlante a cura di Underwear Theater, di nuovo ricordiamo, libero e gratuito, tutti i mercoledì dalle 19 in Polveriera. Ci sarà Filippo Frittelli, che oggi è qui con noi e che di nuovo ringraziamo per essere stato ospite qua della Trapunta. Grazie Filippo. Grazie a voi e grazie anche mille. Del cicchetto alcolico sotto banco. Questo non lo vedono ma lo possono sentire o lo potranno sentire al minuto i nostri ascoltatori. Buono, pezzo? Capitano, sì, avanti. Dai, oh, non assicuro niente, eh? Assicuro io. Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There's a light up ahead. I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning, a hat full of rain. And I know that I've said I'll never do it again. I love you pretty baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead. But I trade it all tomorrow for the highway instead. Watch your back, keep your eyes shut tight. Your love's the only thing I've ever known. One thing for sure, pretty baby, I always take the long way. Eccoci. Allora, ringraziamo ancora Filippo Frittelli per la sua presenza e per tutto anche, direi, il laboratorio Underwear Theatre e l'esperienza è bellissima. Sì, speriamo anche di avere occasione di riproporre qualche cosa durante l'anno. Registreremo magari qualche spettacolo, ci proveremo questa volta. Un po' di radiodramma su Radio, sì, Wombat. Dai, essere... appuntate. Come va? Che mi racconti? Che ti racconto? Te che mi racconti? Sei stato dalle sardine, vecchio mio? Io sono stato dalle sardine. Ho sentito mentre arrivavo che parlavi. Sì, ho anche tirato fuori qualche pensiero. Non lo so, è proprio buttati lì a caldo, proprio spiattellati e poi registrati anche quelli spiattellati. Beh, io me li riascolterò appena terminata la puntata. Poi alla fine sì, bravo, le ascolto, perché comunque la cosa importante è, cioè, più rappresentativa è la canzone che ha mandato dopo. Anzi è Disagio, perché è un po' quello che mi ha suscitato uscendo da, soprattutto sì, stando in piazza, ma anche uscendo dalla piazza, sì, un po' peso. Comunque dai, ho visto, c'è un sacco di commenti su questa roba. Veramente è l'argomento della settimana. Beh, che dire. Non sì, so, però non solo, perché sabato è stata una giornata veramente lunga e intensa. A parte per cose mie, Però poi non c'erano solo le sardine, c'era anche un appuntamento che avevamo promosso settimana scorsa con il laboratorio di Laddarno, non so se ricordi, si chiamava Reinventiamo Piazza Tasso. E quindi, seppur in ritardo, però sono andato a vedere cosa succedeva. Una bella situazione, c'erano diversi partecipanti, hanno fatto diverse cose, una progettazione, almeno la prima parte di una progettazione collettiva dello spazio di Piazza Tasso, e li abbiamo anche intervistati, tra l'altro. Quindi sentiremo, si parla del collettivo 404, che è un collettivo abbastanza recente, si è formato un po' da diversi elementi che sono fuoriusciti dal collettivo di architettura, sì. ARC. Fuoriusciti per età, no? Sì, sì, no, fuoriusciti per età, non per scissioni. E li abbiamo visti, ricordo, in Piazza del Carmine nella giornata. Sì, loro, esattamente. Si definiscono un errore del sistema, appunto 404. E hanno ancora da lavorare, si stanno strutturando, però ecco, magari io mi ripropongo anche di ospitarli uno di questi giorni. Sì, sì. Uno di questi lunedì. Dai, poi, prossima occasione li acchiappiamo. Ricordiamo anche, a proposito di quello che stavi dicendo, rimandiamo magari all'intervista che si può ritrovare sul sito di Radio Wombat, fatta a Sara Gainsforth, che assolutamente nella Sala delle Leopoldine ha presentato il suo libro su Airbnb, e anche all'intervista della settimana scorsa con Cosimo dell'occupazione, sì, di Via del Leone. Sì, vero. Possiamo anche, appunto, riguardo a sabato in Piazza Tasso, possiamo anche rimandare a un articolo che è uscito su Stamp Toscana. Oltre che poi i comunicati sulla pagina del laboratorio di Laddarno, dell'occupazione di Via del Leone, e anche era presente anche Potere al Popolo, tra l'altro. Comunque, ce lo spariamo? E dai, io sono pronto. Ci troviamo in Piazza Tasso con il collettivo 404, appena terminata la giornata. Reinventiamo Piazza Tasso? Sì, si chiamava così. Reinventiamo Piazza Tasso. Che cosa avete fatto? Principalmente con il laboratorio di Laddarno, e l'occupazione di Via del Leone, gli abitanti di San Frediano e di Laddarno in generale, stiamo iniziando un processo di riappropriazione anche degli strumenti per immaginare un quartiere diverso, luoghi diversi, posti come dove vivere diversi. E quindi abbiamo fatto un momento di progettazione partecipata, condivisa, di coproduzione in qualche modo, preceduto da un bel pranzo in piazza proprio, e dopo questo pranzo, dove c'era anche il mercatino di Genuino Clandestino, abbiamo fatto un laboratorio con una bella passeggiata partecipata, in cui gli abitanti e noi che eravamo lì volevamo definire le criticità e le potenzialità dei luoghi che visitavamo, cioè dei punti della piazza, e sono uscite fuori tante questioni che poi in tre tavoli abbiamo restituito su delle mappe, e queste mappe in qualche modo sono una base su cui poi continuare il processo di riappropriazione e di modellamento del territorio. Cioè, noi vorremmo proprio cambiarla un po' per quello che possiamo Piazza Tasso. Perché dici di riappropriazione se è una delle piazze più vissute dai fiorentini? La riappropriazione ha a che vedere principalmente con il potere. Cioè, l'abitante abita, vive i luoghi. La questione è: ha il potere di cambiarli, ha il potere di gestirli, ha il potere di interferire nelle logiche dominanti del governo, della governance? E in questo caso il tentativo è proprio quello di sottolineare che c'è questa dimensione che in qualche modo ci è sottratta. Il simbolo di una generazione dalla politica abbandonata, dal lavoro stesso degli esperti, dei professionisti che si arrogano il diritto di decidere come dovrebbero essere le cose senza chiederlo magari, oppure partecipando a bandi di cui però non sanno niente. Noi vorremmo proprio rovesciare questo tipo di logica dove le scelte vengono imposte dall'alto e al massimo viene chiesto il consenso rispetto alle cose che vengono decise, ma noi non diamo il nostro consenso, noi vogliamo cercare di decidere da noi anche il piano del conflitto, della lotta, del tipo di pratica che vogliamo fare, e non accettare le proposte varie e strane che vengono dall'alto, quindi produrle proprio. Ecco, tornando alla giornata di oggi, che cosa è uscito da questo laboratorio? Il laboratorio principalmente sottolinea un certo grado di incuria e di malgestione. che si rispecchia poi in tutta una serie di elementi, di dettagli dell'arredo che sono di bassa qualità, di bassa manutenzione delle aiuole, di cattivo anche solo granulometria del terreno, quindi il problema generale è una mancanza di attenzione alla vita quotidiana delle persone, quindi i punti poi che vengono fuori sono la cattiva accessibilità, per esempio per le persone anziane, chi si muove male, oppure il problema del monumento alla resistenza ai caduti, che è chiuso, poco illuminato, oppure ancora la mancanza di tavoli, di luoghi dove mangiare, conversare, oppure il troppo afflusso di macchine fuori orario di vita classica e legato a flussi più grandi, quindi i troppi parcheggi. Ecco, queste sono le criticità dominanti. A queste criticità noi abbiamo cercato di far emergere delle potenzialità, delle possibilità di cambiamenti, delle direzioni di cambiamento. Quindi la possibilità di aggiungere un bagno per donne e uomini assolutamente gratuito, oppure la possibilità di mettere dell'arredo mobile come panche, panchine, sedie in plastica da poter tenere lì, o ancora la possibilità di aggiungere una piccolissima pensilina o comunque un elemento che ricordi e che dia struttura al mercato che avviene lì il giovedì pomeriggio. Quindi rinforzare quelli che sono gli usi popolari della piazza e anche riappropriarsi di alcuni elementi che gli stanno ai lati, tipo, questa è utopia, però il grande giardino Torrigiani, immenso bene privato che in effetti è sottratto alla cittadinanza, oppure gli spazi dei conventi limitrofi che potrebbero essere dei luoghi dove in qualche modo la piazza e la cittadinanza respira, trova spazi anche molteplici per usi diversi, semi privati, il barbecue, la griglia, lo spazio anziani, la bocciofila, quindi tutta una serie di elementi che potrebbero trovare luogo appunto nella piazza e nei suoi dintorni. Ecco, e che poi immagino che parte di essi verranno anche proprio realizzati in laboratori di autocostruzione. L'idea è quella proprio su alcuni dei punti più, diciamo, pragmatici, puntuali, in cui potremmo agire anche direttamente, è quella di costruire, sì, cioè tentare di porre alcuni rimedi. Questi rimedi sono, diciamo, importanti, ma soprattutto per una dimensione simbolica di agire per cambiare le cose, e questo agire per cambiare le cose può essere dall'autocostruzione alla rivendicazione politica in quartiere, alla partecipazione ai consigli di quartieri, alla richiesta dei consigli di quartieri aperti, quindi tutti gli strumenti che uno ha a disposizione, diciamo, nella lotta, no? Anche l'autocostruzione è una forma di lotta per arrivare a questi obiettivi che non sono piccoli, perché comunque la trasformazione del territorio, la sua mercificazione, la sua turistificazione avvengono, e anche le politiche reazionarie, segregative, così avvengono proprio poi nel territorio piccolo, quindi cercare di disinnescarle nelle loro, diciamo, configurazioni capillari, cioè nel loro sviluppo minuto, è una parte importante della nostra lotta, che potrebbe portare un po' di potere dall'altra parte, principalmente questo. Ecco. Bene, quindi dai, dacci un giudizio finale sulla giornata di oggi. No, io non lo so, Lara, vuoi dire qualcosa su com'è andata? Secondo me è andata molto bene, perché è stata molto partecipata. E quello che raccontavo prima, perché c'è stato un bel impasto di varie generazioni, no? Quindi non eravamo solo giovani, anzi eravamo giovani, anziani, abitanti del quartiere e non anche interessati alla questione, evidentemente. Quindi è stata molto partecipata, abbiamo fatto 3 tavoli altrettanto partecipati. Io credo che l'importante però adesso sia non lasciare che questa cosa caschi così con una cosa puntuale, ma dare una progettualità a questo primo momento, e quindi seguire con gli interventi, con i progetti, con la lotta, e quindi seguire questa direzione, portarla avanti. Quindi sicuramente c'è bisogno di seguire questo percorso appena iniziato e di coinvolgere continuamente gli abitanti, che sono stati molto contenti. Dai, è buono, quindi al prossimo appuntamento allora, ci sentiamo. Grazie mille. Grazie, ciao. Grazie a voi. Anche le foche bevono Radio Wombat. Voglio dirti, no, io voglio dirti, amico mio, che questo è il mio spot preferito. Anche le foche bevono Radio Wombat. Anche le foche bevono Radio Wombat. Sì, eh sì, è così. Senti, bello, dai, bello. La punta è finita, direi. Ma solo per questa settimana, e continuerà ad aggiornarsi tutta la settimana in diretta sul sito lapunta.org. Sulla punta.org, mi raccomando, riascoltate, condividete, diffondete il podcast e la notizia che in città c'è una piattaforma che fa quello che fa la punta. Noi ci sentiamo la settimana prossima, ringraziamo gli ospiti ancora, Filippo Frittelli, Underwear Theatre e Pietro del collettivo 404. Ringraziamo chi ancora una volta non ha scritto, non ci ha minimamente scritto sulla nostra mailing list. Però ricordiamo la posta wombat@inseria.net. Ma comunque è colpa nostra che non abbiamo un numero WhatsApp. Lo mettiamo, lo metteremo, dai. Per la prossima volta. Dobbiamo intanto mettere un sistema di messaggistica. Allora, io ricordo comunque di nuovo il numero privato di Bricco Baldo, perché esatto. C'è 349-675-9832. No, 31. 31, scusa. 31. Dai. Settimana prossima allora. E viva, viva Radio Wombat. Alla prossima settimana. Buona settimana a tutti. E tutte. E tutti. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just grass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Rassegna eventi. Senta, scusi, per favore, mi dà tutto sport? E che vuole lui? Vuole tutto sport. Da noi lo vuole. Tutto. Ma senti tu? È tutto. Ma se non si dà tutto a noi che ci rimane? Scusi, ma lei lo vuole tutto?